Eko Karouji, Dila Molongo Zodina. Nabuzi nembo wa mina na malawasa motepadi, motepadi na kuzi na bemo aniwane ya nemba bekwadi. Bekwadi bendene nene, bena mbebuka bondeba. Nabuzi nembo wa mina na malawasa sonandolo, sonandolo na kuzi na bemo aniwane ya nemba bekwadi. Se non vanno tutti i giungoli, tagli su e andiamo a stare, io vanno. bamina.